Siamo ancora sull'onda di Art City 2023, siamo con Lorenzo Balbi per Radio Città Fuji, con William Piana e Rachele Copparoni. È una nuova esperienza, di cui però Lorenzo abbiamo già dato una presentazione. Ora siamo arrivati al concreto, ufficialmente, con questo Dream Team di giovani. Ce ne vuoi parlare? Assolutamente sì, si parla del progetto Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition, quindi una seconda edizione del Nuovo Forno del Pane, che era questo progetto di sostegno alla comunità artistica di Bologna e non solo, che il Mambo ha varato durante gli anni della pandemia, in cui aveva essenzialmente trasformato gli spazi del museo in spazi di studio, di lavoro per artisti che in quel momento non potevano neanche permettersi l'affitto di uno studio. In questo caso, memore di questa esperienza, più che altro come museo, ragionando sul fatto che un museo non può fare a meno di avere anche un ruolo nel sostegno veramente della produzione, della carriera degli artisti. Quindi un museo non deve essere solo un centro di esposizione o di produzione di singole opere, ma deve e può essere anche un centro di formazione, di educazione, di scambio per gli artisti. E quindi questa essenzialità che noi abbiamo manifestato è stata accolta anche dalla città metropolitana di Bologna, che ci ha detto: perché non pensate a un'edizione del Nuovo Forno del Pane in città metropolitana? E quindi da questo è scaturita questa progettualità, che essenzialmente mette insieme dei centri di produzione culturale e di residenza già attivi nel territorio. E questo per me come direttore del Mambo è ancora più importante, perché il museo non solo un museo civico, un museo che vuole essere un punto di riferimento per un territorio, un'antenna, non solo deve accorgersi di queste realtà, ma soprattutto deve interagire con queste realtà e dare anche possibilità a queste realtà di fare rete, di lavorare insieme. E da queste due, diciamo, forze è nato il progetto Nuovo Forno del Pane Outdoor Edition. Abbiamo lanciato una call e appunto ci siamo sentiti su questi argomenti quando la call si è chiusa e sono stati selezionati 6 artisti, sono arrivate più di 120 candidature, il che ancora una volta ci dimostra come questi progetti siano necessari e che probabilmente possiamo fare molto di più perché se questo è il livello di risposta durante Natale e le feste, vuol dire che gli artisti italiani hanno veramente bisogno di questi spazi. E oggi finalmente li abbiamo qui, li abbiamo voluti di nascosto, diciamo, nella settimana dell'arte, perché gli artisti sono arrivati le settimane passate, perché ci piaceva anche che arrivassero proprio nel momento clou di riflettori accesi sulla città, ma hanno ufficialmente iniziato a lavorare dalla scorsa settimana, si sono insediati in questi 6 luoghi, che sono 6 luoghi che sono stati selezionati in rappresentanza ognuno di un distretto culturale della città metropolitana, quindi diciamo che tutto il territorio è rappresentato, e oggi per la prima volta li presentiamo ufficialmente alla stampa, al pubblico. Ma molto bene, direi. Siamo stati esaustivi. Assolutamente. E quindi buon lavoro, complimenti e grazie. Grazie a voi, buon lavoro agli artisti, e spero veramente che anche loro abbiano occasione di farsi sentire, magari anche ai vostri ascoltatori. Certo, ci sarà occasione. Grazie. Grazie.